Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Giovanissimo, è già tra i più noti doppiatori italiani e ora usa la voce anche per cantare. Il suo ultimo singolo è Mare di Plastica. Alex Polidori. Allora, la mia carriera è nata seguendo le orme di mio fratello Gabriele Patriarca, che è un altro bravissimo doppiatore. Siccome mi mettevo sempre lì a guardare tutti i cartoni che doppiava, insomma le serie, avevo già appreso un po' di cose, avevo assorbito come una spugna da quando avevo 2-3 anni. Poi quando mi sono ritrovato a fare delle battutine per gioco, hanno notato appunto che ero abbastanza spigliato e non mi intimidiva stare davanti al microfono. Poi mano a mano sempre cose più importanti, fino ad arrivare a Nemo che ho fatto a 7 anni e poi tante altre cose. Io sento la tua voce, penso subito a Spider-Man, però penso sì, anche a filmoni come Chiamami col tuo nome, per me sei anche Timothée Chalamet. Ma a questo punto come ti è venuta l'idea di cantare anche? Beh, l'idea di cantare in realtà c'è da sempre, perché in realtà poco tempo prima, perché ero comunque piccolissimo quando ho iniziato a doppiare, però la passione per il canto è nata prima, perché mio papà è un musicista, un cantautore, insomma autore, ha scritto canzoni per tanti artisti, ha girato il mondo suonando, facendo il piano bar che si faceva una volta, il vero piano bar degli anni 80. E quindi io ho respirato musica fin dai primi attimi di vita. Mio papà mi inculcava, mi voleva far cantare a tutti i costi fin da piccolissimo, e quindi è nata un po' così, canto da sempre. A un certo punto durante l'adolescenza, durante il liceo diciamo, mi è scattata un po' la cosa di voler provare a scrivere anch'io, no? Mi ero appassionato delle vecchie canzoni di mio padre, ho detto ma perché non posso provare a scrivere anch'io? Insomma, qualche piccola soddisfazione già me la sta togliendo e mi fa molto piacere. Siamo in un mare di plastica, un mare di guai, siamo sommersi dall'odio online, mastichiamo il mondo come chewing gum, lui chiede aiuto ma e tre messaggi spam. Questo non è un film, non ci salvano i supereroi, e prova a svegliarti, ora è già tardi, non esiste poi. Insegnato al mondo a fumare, adesso un polmone che brucia. Ai miei figli insegnerò il rispetto per la natura, oltre al chiedere scusa. Mi racconti di Mare di Plastica? Sì, Mare di Plastica è il mio ultimo singolo ed è una canzone che per me è molto importante, perché tratta una tematica che ho molto a cuore, l'emergenza ambientale. Finché non ti documenti, non vai a fondo e non ti interessi veramente al problema, ti sembra una cosa sì che fa parte della nostra attualità, della nostra società, come tanti altri problemi, ma ho preso a cuore questa tematica, ho cominciato a tirare giù pensieri che io annoto sempre sulle mie note del telefono, come faccio spesso, però a quanto pare ero abbastanza ispirato, questi pensieri andavano, questo flusso di coscienza. Ognuno gioca un ruolo fondamentale, questo è un po' il messaggio che volevo mandare. E arriva bello, diretto, efficace. Ti chiedo un'ultima cosa, ma è vero che tu hai fatto il valletto di Mike Buongiorno? sì, è vero, avevo 5 anni, e ero molto piccolo e dovevo interrompere praticamente Mike Buongiorno durante le puntate di Bravo Bravissimo per voler raccontare delle barzellette. Era una gag molto simpatica e sul palco ovviamente doveva trattarmi un po' male, cioè doveva essere infastidito dal fatto che io lo interrompevo, fuori dalla scena insomma era molto molto simpatico. Mi ricordo sempre, mi diceva questi capelli, hai capelli neri come la pece, eh? E quindi ho un bel ricordo, bellissimo. Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Alex Polidori. I prossimi appuntamenti con RadioTube sono il sabato con Social Village e Social Network in diretta dalle 16.